Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Sono le 8, 18 minuti e 48 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di mercoledì 21 ottobre, al microfono sempre Simone Spezia. Parleremo un po' della pandemia alle 8.35 con Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, la fondazione del gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, e poi alle 8.45 avremo ospite il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, intervistato oggi tra l'altro anche sul Sole 24 Ore a pagina 3. Parleremo ovviamente di recovery fund, riforma fiscale e via dicendo, la manovra, ovvio. Questo però come sempre lo spazio, il punto di giornata con il nostro Paolo Miedi. Caro Paolo, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Cosa hai visto oggi? Dimmi su Covid. Ma magari sul Covid, come sempre, invece di affrontare le notizie da quelle principali, le notti chiuse a Milano, a Napoli, a me interessano, vedo delle notizie laterali. Innanzitutto io tengo d'occhio la pagina degli annunci mortuari del Corriere della Sera e si sta ampliando, lo dico così. Poi ho notato che a Cortina c'è un boom di contagi perché c'è una RSA dove hanno trovato 45 positivi su 58, c'è un boom di contagi in Svizzera. Insomma, la situazione non è ancora drammatica, però qualche segnale d'allarme c'è, A leggere i giornali si capisce che gli scienziati sono più allarmati dei politici o del governo, e comunque che il governo di qui alla fine settimana dovrà fare un nuovo DCPM, insomma si comincia la solita trafila, ne abbiamo già parlato, no? La sera, tardi, Conte che si presenta trafelato in televisione, annuncia un nuovo DCPM che è sempre insufficiente, se ne dovrà fare uno la settimana successiva. Segnalo che anche il Fatto Quotidiano, che è il giornale che insieme al Foglio più simpatizza nei confronti di Conte, dà segni di nervosismo. Lo stesso Travaglio nell'editoriale dice sono misure senza senso, cioè il virus viaggia 24 ore su 24, chiudere la notte dalle 23 alle 5, può darsi che funzioni, però se si tratta di bloccarlo, secondo lui funzionano meglio i lockdown mirati, un quartiere mirati e chiari, hai capito? Non come sono adesso. Ti segnalo che secondo Libero De Luca prudenzialmente avrebbe lasciato Napoli e se n'è andato a casa sua a Salerno. Sì. Non solo Libero, c'è anche su altri quotidiani il racconto di De Luca che se ne va a Salerno. Però è nostalgia di casa nei momenti drammatici. Però guarda che non è solo De Luca, perché Ursula von der Leyen con stupore hanno visto che ha lasciato il Belgio, e lei è in quarantena non per essere contagiata lei, ma perché un suo collaboratore era contagiato, e se n'è tornata in Germania. Tra l'altro tutti dicono: ma come ha fatto guidando la macchina lei da sola? Insomma, c'è tutto un giallo su questo. Secondo i giornali la tensione fra Gualtieri, te lo segnalo perché lo avrà in studio fra breve, e Zingaretti è fortissima. Zingaretti lo accusa sostanzialmente di fare il tifo sulla questione MES per Conte. Non so se vorrà rispondere su questo, però sul MES sicuramente lo interpelleremo, è il ministro dell'economia. Melania c'è la tosse, e poi è morta, scusami, Lea Vergine il giorno dopo Enzo Mari. Enzo Mari è un famoso designer, Lea Vergine una famosissima critica d'arte, erano marito e moglie, e tutti raccontano di Enzo Mari e di Lea Vergine, però raccontano anche di tante coppie celebri che sono morte lo stesso giorno, un giorno di distanza. Giorgio Amendola, il leader comunista, e sua moglie Germaine, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Federico Fellini e Giulietta Masina, e alcuni giornali citano anche il filosofo André Gorz, uno dei fondatori del Nouvel Observateur, che morì il giorno dopo la moglie Dorin, ma se ricordo bene era un suicidio quello di Gorz, sì. Quindi secondo me nella classifica non conta, no. Però sì. Insomma, può darsi che mi ricordo bene e basta, e poi ci stanno le solite Conte che dice che ci sarà il vaccino entro dicembre, sì. Mi sembra che lo dica, sì, in un libro di Vespa, sì. Burioni che dice chiunque parli di vaccini vi dia una data vi sta ingannando, perché sì. Le procedure per i vaccini sono più complesse di come le descrivono e via dicendo, e via dicendo. Sono cose di tutti i giorni, sì. Paolo, visto che accennavi ai temi della politica, la politica si concentra tantissimo sulle amministrative in questo periodo, perché tutti stanno scegliendo chi candidare, chi corre. Allora, nei giorni scorsi abbiamo preso in esame Morgan, candidato da Sgarbi alla guida di Milano. Oggi c'è Franco Baresi. C'è Franco Baresi oggi, dai, secondo me vince. Però i giornali si incentrano tutti sul fatto che Berlusconi ha tirato fuori, come sempre, la carta Bertolaso. E solo che qualcuno avanza su Roma, segnaliamo su Roma, sì. Bertolaso su Roma fu già tirato fuori nel 2016, poi a metà gara dovette ritirarsi perché la destra più a destra protestava, e si presentò la Meloni a Roma, che arrivò terza, quindi non entrò in ballottaggio. Al posto di Bertolaso quella volta ha mandato in campo Berlusconi, Marchini, oppure era in campo Marchini, sì, e spostò i suoi voti, sì, su Marchini. Però insomma sembra un cavallo di ritorno questa storia di Bertolaso. Comunque te la registro, perché nell'impazzimento dei nomi non c'è solo la sinistra, cioè sì. La sinistra continua ad andare avanti come un torello. Carlo Calenda, secondo me alla fine, se gli dessero una data certa per le primarie, accetterebbe le primarie, di correre per le primarie, perché da quello che capisco l'unica cosa non vuole dire sì, corro per le primarie, poi gliele mettono a aprile, e lui che fa di qui a aprile, insomma. Sì. Senti Paolo, la butto là, non ho ancora visto il nome di una donna, eh? Non ho ancora visto il nome di una donna per le grandi candidature. No, ci sta, no, a dirlo. A parte Virginia Raggi. Sì. Non a parte, perché Virginia Raggi è quella che si è candidata per prima. Però sui giornali c'è una grande donna, adesso, che chi è? Però in Iran, che la figlia di Rafsanjani. Rafsanjani fu il presidente dell'Iran fra l'89 e il 97, un presidente moderato per quello che riguarda l'Iran. Lei è una grande combattente, una grande, è stata anche a 57 anni, è stata anche parlamentare, e ha fatto una clamorosa intervista, ne parla Repubblica di questo, a un giornale iraniano, in cui ha detto tra le righe che bisogna cambiare la politica nei confronti di Israele, e siccome c'è tutto quel movimento, l'abbiamo segnalato, il piano Abramo diplomazia in Medio Oriente, questa intervista è da tenere d'occhio. Quindi Feze Hashemi Rafsanjani, sì. Guardiamo questa cosa, perché almeno una donna c'è. Molto rapidamente, Paolo, sul e tema poi della... ci stanno le donne, sì, anzi, vai. Dimmi, vai, che donne hai visto? Io ti le voglio portare donne... Oggi, portami tu, ti porto io. Mi piace, se l'hai portato per mano. Ecco, va bene, a braccetto. Allora, la magistratura, ti volevo portare sulla magistratura in realtà. È che è un tema che trattiamo spesso. Oggi, a scoppio ritardato, lo dicevo prima in rassegna stampa, arrivano tutti i commenti sulla vicenda da Vigo, da Giancarlo Caselli sul Fatto Quotidiano, Luciano Capone sul Foglio e molti altri. Anche sul Giornale se ne parla, sul Libero e via dicendo. Però ieri c'è stata anche l'elezione, no? per sì. La rappresentanza della magistratura. Guarda, te lo dico molto semplicemente, hanno vinto le correnti di sinistra, che erano quelle che avevano criticato Davigo per il suo desiderio di rimanere in CSM, e hanno perso clamorosamente, abbastanza clamorosamente, sia la corrente di Davigo sia quella di Palamara. Io lo interpreto come un segno del fatto che i magistrati vogliono tornare un po' a mettere la testa sott'acqua, a loro non piace questa esposizione, si sono sentiti presi a schiaffi per mesi e mesi senza poter rispondere e hanno punito, a loro modo hanno mandato un segnale di questo tipo. Ma io ti stavo dicendo invece a proposito di donne che mi ha colpito una pagina di Vittorio Feltri su Libero, che ti ricordi la vicenda di Francesco Bellomo, quell'ex consigliere di Stato imputato perché aveva molestato delle studentesse a cui prometteva di entrare in magistratura, ritira fuori tutte le lettere di queste studentesse e studentesse, poi non erano studentesse, erano delle laureate che volevano andare in magistratura ed effettivamente alcune si conoscevano di queste lettere, però sono molto compiacenti nei confronti di Bellomo, tant'è che Feltri scrive: preferisco ipotizzare alla luce di questi messaggi che le dottoresse, all'epoca dei fatti donne già laureate, avvocatesse di ottima famiglia, fossero perfettamente in grado di intendere e di volere proprio come oggi, e che fossero sincere allorché dichiaravano amore folle al loro professore, lodandolo le virtù di lealtà e sensibilità, qualità che di solito non si riconoscono a un molestatore o uno stalker. Certo. Quindi si riaccende la polemica di Bellomo, guarda, è un caso che continuamente riemerge. Un po' come, quello di Autostrade. Scusami, un'ultima cosa, che Atlanta ha preso, è sempre la questione del ponte di Genova e dei Benetton, ha preso in mano la questione, ha dato un suo contro ultimatum che è un giorno prima, il 27, prima di quello che hai dato tu ieri del 28. Non ne posso più. Quindi non ne posso più. Te lo dovrai ingoiare quel tuo ultimatum per la caducazione. Esatto, tra l'altro, se non arrivano all'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e Atlantia per la cessione di Autostrade, ricordiamo che ricomincia il gioco della caducazione, il grande gioco della caducazione. Guarda, questa volta se non arrivano in porto il 27, o ti concedo anche il 29, ma se non arrivano in porto ti giuro che ti faccio nero. Dai, vabbè. Prossima scadenza il 30 febbraio. Così siamo tranquilli. Grazie Paolo, a domani, a domani dopo il giro delle 8. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Buongiorno e bentornato a Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, la fondazione dell'Associazione Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze. Cartabellotta, eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, per prendere in esame i numeri, naturalmente, quello che ci dicono e quello che ci dicono sulle misure che si dovrebbero prendere, misure sulle quali lei è stato critico, Cartabellotta, dice quello che si sta facendo è troppo poco a fronte dell'evoluzione del contagio che stiamo vedendo. Guardi, noi purtroppo siamo un po' ossessionati all'inseguimento dei numeri del giorno, un po' più, un po' meno, più casi, un po' più tamponi, più 10, più meno 10 in terapia intensiva, e stiamo perdendo di vista quella che è la dinamica dell'epidemia. Ed è dinamica dell'epidemia che ha avuto questa crescita post vacanze, diciamo tutto sommato moderata, perché ci siamo contenuti intorno ai 10.000 casi la settimana. Io ricordo a tutti i radioascoltatori che nel monitoraggio della Fondazione GIMBE proprio si tara su base settimanale per evitare tutti questi yo-yo caratterizzati anche dalla variazione dei tamponi piuttosto che dal ritardo delle regioni nella comunicazione dei dati. Mentre poi nelle ultime tre settimane, più o meno diciamo dai primi di ottobre, la crescita dei nuovi casi è diventata importante. Siamo passati diciamo dalla prima settimana di ottobre, quando abbiamo fatto 17.252 casi in una settimana, all'ultima noi facciamo il mercoledì-martedì, quando questi casi sono diventati quasi 69.000. È evidente che questo incremento settimanale dei nuovi casi di questa entità genera quello che è la progressiva espansione del bacino dei casi attualmente positivi. E ricordo, sono quelli in isolamento domiciliare, quelli ospedalizzati con sintomi e quelli in terapia intensiva. Poi i soggetti guariti e i deceduti invece poi vengono di fatto tolti perché sono casi chiusi da quello che è il contenitore dei casi attualmente positivi. avendo 142.739 casi attualmente positivi, si capisce bene che il sistema di tracciamento è ormai andato, sì, come la Lombardia ha dichiarato pubblicamente, anche ieri il Piemonte, perché se una persona ha mediamente 10 contatti, significherebbe tracciare e rintracciare i contatti di circa 1,5 milioni di persone, cosa che di fatto non è materialmente fattibile. E tutto questo incremento che cosa ha determinato? Ha determinato un progressivo incremento sia dei pazienti ospedalizzati con sintomi, che nelle ultime due settimane sono passati, sì, da 3.600 a 8.400, e di quelli in terapia intensiva che sono passati da 319 a 870. Sì. La cosa interessante anche dal punto di vista grafico è che le tre curve, quella degli attualmente positivi, quella degli ospedalizzati con sintomi e quella delle terapie intensive, sono perfettamente identiche dal punto di vista delle dinamiche. Cambiano ovviamente i numeri e i parametri numerici di riferimento, decine di migliaia quelle degli attualmente positivi, migliaia ricoverati e centinaia quelle delle terapie intensive. Certamente, certamente. Ovviamente il fronte preoccupante è esattamente quello delle terapie intensive e dei ricoveri, perché poi ha un effetto a cascata su tutto il resto, su anche sulle altre prestazioni, naturalmente cartapellota, come fu nel periodo di marzo-aprile. È proprio così, con la differenza che noi allora abbiamo avuto, diciamo, un'esplosione che ci ha trovato impreparati anche dal punto di vista della gestione ospedaliera dei casi gravi. Oggi siamo preparati e questa, diciamo, graduale salita del numero dei casi la stiamo vedendo, ma adesso sta cominciando ad accelerare. Il problema, come giustamente ha detto lei, qual è? Che se i casi asintomatici potrebbero in linea teorica aumentare all'infinito, perché comunque, voglio dire, se ne stanno a casa in isolamento domiciliare, se la percentuale di quelli che vanno in ospedale rimane fissa, più o meno circa il 6%, lo 0,5% in terapia intensiva, con numeri assoluti che aumentano così tanto, stiamo discutendo già di migliaia di pazienti. Quando arriva il collo di bottiglia del sovraccarico dei letti ospedalieri, purtroppo poi si comincia anche a morire, perché i decessi nelle ultime due settimane, seppur in misura meno importante, però sono aumentati da 155 a 459 e non mi pare, voglio dire, un numero piccolo rispetto a quella che era un virus che, di cui, diciamo, avevamo in qualche maniera celebrato il funerale. Sì. Cartapellota, sul fronte delle terapie intensive, no? Che è l'aspetto che ci dà un po' anche la misura di quanto si aggrava la situazione, noi abbiamo dei numeri che ci dicano qual è la degenza media sia per i ricoverati sia per i ricoverati in terapia intensiva di un paziente Covid, e se effettivamente si sta abbassando questa degenza media come viene raccontato aneddoticamente da qualche giornale? Perché questo è un altro fronte importante. È chiaro che se uno rimane ricoverato in ospedale a causa del Covid per un mese è un conto, se ci rimane due settimane è un altro, perché l'ospedale, semplicemente il letto, si libera prima, per metterla molto semplicemente. È una buona domanda alla quale purtroppo non c'è una risposta, perché noi non abbiamo dati, perché noi tra l'altro conosciamo solo quello che è il saldo dei pazienti, cioè noi sappiamo oggi quanti letti ci sono occupati in terapia intensiva e quanti in ospedale, ma non conosciamo poi chi entra e chi esce, quindi il flusso dei pazienti, come avviene dall'ospedalizzato alla terapia intensiva, al decesso, al guarito. Quindi noi valutiamo solo quello che è il sovraccarico ospedaliero con il numero praticamente dei posti occupati, ma non conosciamo questi dati. Mediamente un paziente in terapia intensiva, quando è grave e se la cava, ci sta 10, 12, 14 giorni, quindi non si tratta di permanenze brevi. Motivo per cui quando si determina il grande sovraccarico come quello di marzo, inevitabilmente poi ci sono anche delle scelte etiche discutibili, ma pragmaticamente inevitabili, perché è evidente che anche i rianimatori devono fare scelte difficili quando gli scenari cominciano a diventare di guerra. Un ascoltatore dice: se non conosce i dati, di cosa parla? Il problema è che questi dati non vengono forniti. Qua è il grande problema della cultura dei dati di questo paese, che non esiste, perché su certe cose non si riescono ad avere i dati, non riesce ad averli cartapellota, non riusciamo ad averli noi, non riesce ad averli, forse ce li ha il Ministero della Salute, sparsi in qualche luogo oscuro o ogni singola regione, e non riusciamo ad uscirne. Cristian D'Amanto, velocissimo per favore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ascolti, innanzitutto io volevo chiedere il perché non vengono fatte zone rosse la Milano e provincia, e la provincia di Monza e Brianza, ex provincia di Milano, comunque, poiché sono i contagi e il problema è praticamente della Lombardia, è tre quarti, sono tutti lì, tre quarti dei contagi. E la motivazione è una domanda, comunque, perché sì, sono stati fatti zone rosse, Codogno e gli altri comuni vicini dove c'erano 100, 200 casi, qui si parla di migliaia di casi. e addirittura si parla di chiudere tutta la Lombardia, dove ci sono province quali quella di Mantova o di Sondrio che sono praticamente toccate marginalmente, non perché sono chiaramente più furbi e più intelligenti, per fortuna, perché ci sono meno abitanti. Ecco, questa è una domanda, perché sì, sono sì. Praticamente... Cristian, chiarissimo, carta bellotta, secondo lei ci vuole un lockdown a Milano e nella provincia di Monza e Brianza? Ma guardi, le decisioni di questo tipo sono politiche. Dal punto di vista tecnico, io quello che posso ribadire è che nella fase di risalita della curva epidemica bisogna agire in maniera molto selettiva, e questa selettività è data da quella che è la densità del contagio, che dobbiamo sempre parametrarlo ai 100.000 abitanti, perché altrimenti le regioni piccole piuttosto che le province piccole non riusciamo a capire in realtà qual è, guardando il numero assoluto o l'entità del contagio. E ribadisco quanto più volte ripetuto in questi giorni, che questa è la strategia che ci permette di arginare il contagio dal singolo condominio al quartiere, all'intero comune, all'intera provincia, perché nel momento in cui poi il livello decisionale delle chiusure si sposta a livello regionale o nazionale, inevitabilmente colpisce tutti alla stessa maniera. E qua ribadisco quello che è il ruolo dei sindaci come autorità sanitaria locale, a definire quelle che sono le misure restrittive ideali sino al lockdown o alla zona rossa, come il signore molto correttamente ha definito, che ovviamente possono essere prese direttamente dal sindaco previa informazione del presidente della regione. Ultima domanda, cartabellotta, visto che con i dati voi ci lavorate, c'è un problema di sporcatura di questi dati, cioè è difficilissimo avere dati chiari anche sui tamponi effettuati, a chi sono effettuati, cioè ci ritroviamo nella stessa situazione di marzo-aprile, cioè, se vengono effettuati, quali sono quelli effettuati alle persone delle quali si deve verificare la guarigione, eccetera, eccetera. Allora, dal punto di vista, diciamo, squisitamente della qualità del dato, credo che adesso i dati vengano raccolti in maniera, diciamo, più omogenea, quindi i dati sono buoni. Quello che è mancato è una maggiore granularità. Cosa intendo? Che se 7-8 mesi fa, in condizioni di emergenza, era impossibile conoscere una serie di dettagli ulteriori, adesso, quando soprattutto i casi sono diventati pochi, il sistema informativo poteva arricchirsi e rendere pubblicamente disponibile tutta una serie di altri dati ulteriori. Per esempio, per provincia noi conosciamo solo quello che è il totale dei casi, ma non sappiamo quanti di questi vanno in terapia intensiva, quanti sono ospedalizzati. Cioè il set di dati di fatto è rimasto più o meno quello di qualche mese fa, non è stato arricchito di dettagli che anche noi ricercatori indipendenti garantirebbero, diciamo, la possibilità di effettuare delle analisi più dettagliate. Grazie Nino Cartabellotta per essere stato con noi della Fondazione Gimbe, e saluto il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Buongiorno Ministro e grazie per aver accettato il nostro invito, bentornato ai microfoni di 24 Mattino, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Partirei esattamente da quello che abbiamo raccontato fino adesso, ossia la ricrudescenza dell'epidemia, questa seconda ondata, e capire da lei che livello di preoccupazione genera intorno all'andamento dell'economia. Ma naturalmente noi seguiamo con grande attenzione i dati del contagio, siamo consapevoli che è in corso una ondata di contagi in crescita in tutti i paesi europei, anche nel nostro paese era previsto che ciò si determinasse, anche nelle nostre previsioni è tuttavia evidente che siamo in un momento decisivo in cui occorre arrestare questa crescita, e per questo il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive. Il nostro obiettivo è quello di evitare lockdown generalizzati e di agire appunto con maggiore granularità sugli ambiti che sono più forieri di contagi. Ci affidiamo al senso di responsabilità di tutti i cittadini e sappiamo anche che occorre che tutti i sistemi sanitari siano in grado anche di agire il più rapidamente possibile con i test, i tracciamenti. Questo può peggiorare, appunto, come diciamo, l'andamento dell'economia, e può avere un impatto sulle previsioni che avete fatto per quest'anno e per l'anno prossimo, Ministro? Ma la nostra previsione già scontava un rallentamento del quarto trimestre. Il terzo trimestre è stato molto positivo, adesso vedremo i dati finali, ma la nostra stima è che ci sarà stata ormai, perché siamo ad ottobre, una crescita del PIL superiore al 13,5%. E questo ha mostrato davvero una forte resilienza del nostro sistema economico, grazie all'efficacia del contenimento del contagio nella prima fase, grazie anche all'efficacia delle misure senza precedenti di supporto all'economia, ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie che il governo ha varato. Adesso noi diamo per scontato nella nostra previsione di meno 9 che il quarto trimestre invece non ci sarà questa forte crescita. Naturalmente se invece ci sarà un andamento più negativo, entra in quello che noi abbiamo messo nella NADEF, che è il cosiddetto scenario avverso, in cui prevediamo invece un calo del PIL leggermente maggiore del 10,5%. Ma noi confidiamo e speriamo di poter invece chiudere in linea con la nostra previsione di base. Molto dipenderà anche dal quadro internazionale, naturalmente, certo. Che c'è una forte interdipendenza dei sistemi economici, quindi anche come evolverà il quadro dell'economia negli altri paesi europei ed extraeuropei sarà decisivo. Vengono stanziati, a proposito di questo, in manovra 4 miliardi per la sanità e 4 miliardi in misure di sostegno ai settori maggiormente colpiti durante l'emergenza Covid. Se la situazione dovesse peggiorare, cioè questa cifra che avete messo in campo, Ministro, è prudenziale, nel senso che nel caso ci dovessero essere una serie di lockdown localizzati, penso per esempio a una città come Milano che tanto fa per il prodotto interno lordo italiano, che tanta ricchezza produce, è una cifra prudenziale o ritiene che possa essere necessario incrementarla se le cose dovessero peggiorare, e siete pronti a farlo? Noi abbiamo sempre mostrato grande flessibilità e quindi ovviamente adattiamo le nostre risposte economiche al quadro della situazione. Noi peraltro prevediamo, qua stiamo parlando del 2021, questi 4 miliardi sono per il 2021, sul 2020 oltre alle misure già varate che sono ancora in corso, cioè la cassa integrazione, ci sono ancora misure in funzione, noi prevediamo di fare un nuovo decreto che prolunghi la cassa integrazione per tutti fino alla fine dell'anno per coloro i quali esauriranno le loro settimane a metà novembre e che introduca già adesso per quest'anno un sistema di ristori per i settori toccati dalle misure più restrittive del governo. Poi c'è il 2021 e 4 miliardi sono una buona dotazione di partenza. Ovviamente se la situazione anche nel 2021 fosse critica, noi speriamo di no naturalmente, anche perché confidiamo nei progressi sul fronte dei vaccini, ovviamente rafforzeremo queste risorse. Peraltro guardi, le do una notizia, anche se è ancora prematuro definirla tale, la accenno nell'intervista su Sole 24 Ore, che nel dialogo con la Commissione Europea ci sembra di capire che per esempio la quota del Next Generation EU, che si chiama React-EU, che è la parte delle risorse più adatte a interventi di emergenza, di sostegno, sarà molto più alta, potrebbe essere più alta delle previsioni per il primo anno, proprio per dare agli Stati quel margine eventuale di azioni di supporto immediato maggiore qualora fosse necessario. Quindi avremo dei margini per adattare la nostra risposta all'evoluzione della situazione. Avete dato l'avvio, Ministro, alla riforma fiscale, della quale il primo atto, lo avete detto fin dall'inizio, è l'arrivo dell'assegno unico per le famiglie con figli. Ieri il presidente dell'Istat in Commissione Affari Sociali alla Camera ha detto che con l'assegno unico il 30% delle famiglie avrebbe un saldo negativo rispetto all'avere i bonus precedenti. Avete intenzione di intervenire su questo oppure no? Ma francamente mi sembra una stima tutta da approfondire, anche perché non esiste ancora una normativa dettagliata, quindi in qualche modo non so bene su quali basi sia stata fatta questa stima. È naturalmente vero che nella delega si parla di persone e figli fino a 21 anni, oggi ci sono una componente delle detrazioni familiari che va anche per figli a carico di un'età maggiore, anche se non tiene conto della presenza di altri strumenti come per esempio il reddito di cittadinanza. Quindi questo problema di naturalmente evitare che ci siano delle tipologie di famiglie che ci rimettono, tra virgolette, è ovviamente uno dei problemi che sarà esaminato, ma anche per questo noi non ci limitiamo a fondere nel progetto gli sgravi familiari e gli assegni familiari, le risorse attualmente utilizzate per questo, ma mettiamo delle risorse aggiuntive, 3 miliardi per il secondo semestre, e poi abbiamo una cifra complessiva per riforma fiscale e assegni unici che moduleremo anche sulla base della declinazione di questa misura, che peraltro va vista in congiunzione con la riforma fiscale. Anche questo è un elemento, perché se per esempio con l'assegno unico qualche tipologia, la maggioranza di cittadini ci guadagnerà sicuramente, perché noi tra l'altro introduciamo l'assegno per i figli anche per tipologie di lavoratori che oggi non hanno questi benefici, gli incapienti non prendono detrazioni, gli autonomi non prendono assegno unico. Noi daremo un assegno più forte, più ampio, maggiore, e ha una platea di soggetti molto, molto più larga. Con la riforma dell'IRPEF e con l'auspicabile riduzione delle aliquote, anche questi effetti a cui forse faceva riferimento il presidente dell'Istat verrebbero affrontati. Ci può assicurare che pagheremo meno, in sostanza, ministro, con la riforma fiscale? Guardi, si mettono più risorse, insomma, non è una riforma a costo zero. La manovra, tra le tante cose che fa, stanzia appunto 8 miliardi per la riduzione delle tasse, a cui poi si aggiungeranno le entrate da migliore compliance, che è costantemente in aumento. Noi ci abbiamo finanziato, per esempio, con l'aumento delle entrate, la riduzione del cuneo fiscale, quindi è stata fatta senza far pagare un euro di più di tasse a nessuno, ma invece con le migliori entrate della compliance. Quindi tra compliance, che noi pensiamo sarà significativa, questi 8 miliardi e poi anche interventi interni al sistema fiscale di rimodulazione, noi pensiamo di poter arrivare a una riduzione dell'IRPEF di un certo rilievo. Ministro, le questioni europee, a partire da quella del Recovery Fund o Next Generation EU, che è il nome vero, il nome ufficiale, insomma, lo chiamiamo Recovery Fund un po' più spesso, però è così. L'intenzione è quella di prendere tutta la dotazione, perché noi non lo ricordiamo abbastanza spesso, ma di quei 200 e passa miliardi, 120 circa sono debito e 80 sono a fondo perduto, se non vado errato mi corregga se sbaglio. Abbiamo intenzione di prendere tutto, ministro, oppure il fatto che ci siano questi 120 di debito un po' ci fa tenere da parte l'ipotesi di sfruttare solo il fondo perduto? Con chiarezza nella NADEF c'è anche una tabella, noi prenderemo tutte le risorse, sia le sovvenzioni a fondo perduto sia i prestiti. I prestiti saranno una parte utilizzati per investimenti di deficit aggiuntivo e una parte per ridurre il costo di interessi di misure che già abbiamo varato e che sono nel nostro ordinamento, per esempio il super bonus che da oggi costa 14 miliardi, è una misura varata recentemente e fa deficit aggiuntivo per 14 miliardi in un arco di anni, sarà coperto con i loans, mentre l'estensione super bonus con i grants. Ci sono altri paesi, è vero, sembrerebbe che la Spagna non intenda utilizzare la quota prestiti, noi invece vogliamo farlo sia perché produce un risparmio in interessi e una parte ci consente anche di fare deficit aggiuntivo a un costo di indebitamento minore, sia perché riteniamo che sia importante non perdere questo slancio della creazione di un tesoro europeo che emette titoli di debito comune. Abbiamo visto che l'asta per finanziare il programma SURE, che è fatto di prestiti, è andata benissimo, c'è stata una domanda altissima, quindi i mercati stanno scontando questo, chiamiamolo, per citare il mio amico Scholz, momento Hamilton, in cui l'Unione Europea si dota di una fiscalità comune emettendo eurobond, e quindi è importante che non venga trascurata anche questa componente prestiti, e per questo noi utilizzeremo tutti i 125 miliardi di prestiti. Ministro, un'ultima domanda, abbiamo veramente 30 secondi. Non abbiamo capito bene dalle sue ultime dichiarazioni, glielo dico francamente, se lei è a favore dell'utilizzo del MES oppure no. Io a un'intervista spero di essere chiaro, io dico le stesse cose da maggio. Io sono favorevole al MES, anche perché l'ho negoziato io e so bene che è uno strumento che non presenta nessun tipo di condizionalità. Spiego un fatto tecnico che forse non tutti hanno del tutto chiaro e che il Presidente del Consiglio ha spiegato, che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del MES